Capitolo 18. Allegria e lutto. Finalmente arrivò il primo di giugno e Rosalia Murray fu trasformata in Lady Ashby. Apparì superbamente bella nel suo vestito da sposa. Ritornata dalla chiesa dopo la cerimonia, venne di corsa nella sala studio, rossa per l'animazione e ridendo, a quel che mi sembrò, metà di gioia e metà di disperazione. «Ora, signorina Grey, sono Lady Ashby!» esclamò. «È finita, il mio destino è segnato, ormai non si può tornare indietro. Sono venuta per ricevere i suoi rallegramenti e a salutarla. E poi partirò per Parigi, Roma, Napoli, la Svizzera, Londra. Oh, mia cara, quante cose vedrò e udirò prima di ritornare qui. Ma non mi dimentichi, io non la dimenticherò benché sia stata una ragazza cattiva. Su, perché non si congratula?» «Non posso congratularmi», risposi, «finché non saprò se il cambiamento è realmente per il meglio. Ma sinceramente spero di sì e le auguro tanta felicità e le migliori gioie. Bene, arrivederla. La carrozza sta aspettando, mi chiamano.» La baciai in tutta fretta e stava per correre via, ma improvvisamente tornò indietro, mi abbracciò con più affetto di quanto la credessi capace e partì con le lacrime agli occhi. Povera ragazza. In quel momento sentivo proprio di amarla e le perdonai tutto il male che aveva fatto sia a me che ad altri. Non se n'era resa conto, neppure la metà, ne sono sicura, e pregai perché anche Dio la perdonasse. Durante il resto di quella triste giornata di festa ebbi libertà. Essendo troppo sottoposta per una occupazione seria, andai in giro con un libro in mano per diverse ore, più pensando che leggendo, poiché avevo molte cose su cui riflettere. La sera approfittai della libertà per andare a trovare di nuovo la mia vecchia amica Nancy e scusarmi della mia lunga assenza, che certo aveva giudicato molto scortese, col dirle tutto il lavoro che avevo avuto e chiacchierare o leggere o lavorare con lei e anche naturalmente raccontarle le novità di quel gran giorno e forse ricevere in cambio da lei qualche breve notizia sulla aspettata partenza del signor Weston, ma di questo sembrò che ella non sapesse nulla e così sperai con lei che fosse tutta una voce falsa. La donna fu molto contenta di vedermi. Fortunatamente i suoi occhi erano ormai quasi completamente guariti, così che poté fare quasi a meno dei miei servigi. Si interessò moltissimo delle nozze, ma mentre la divertivo coi particolari della festa, sospirò più volte e scosse la testa dicendo «Mi auguro che ne venga del bene». Come me, le pareva più una ragione per addolorarsi che per rallegrarsi. Rimasi a chiacchierare con lei di questo e di altre cose per lungo tempo, ma non arrivò nessuno. Devo confessare che ogni tanto guardavo verso la porta desiderando che si aprisse e comparisse il signor Weston, come era già accaduto una volta, e poi, ritornando per i sentieri attraverso i campi, spesso mi fermai a guardarmi intorno e camminai più lentamente di quel che fosse necessario, benché fosse una bella serata, ma non calda. E alla fine provai un senso di vuoto e di delusione perché ero giunta a casa senza incontrarlo e senza aver visto anima viva all'infuori di qualche lavoratore che tornava dal suo lavoro. Però si avvicinava la domenica e allora l'avrei visto perché ora che la signorina Murray era partita potevo riprendere il mio vecchio angolino. L'avrei visto e dall'aspetto, dalle parole e dai modi avrei giudicato se il matrimonio di Rosalia l'aveva molto afflitto. Ma fortunatamente non scorsi nessuna ombra di cambiamento. Aveva lo stesso aspetto di 2 mesi avanti e nulla di mutato, né nella voce, né nello sguardo, né nelle maniere. C'era nel suo discorso la stessa sincerità brillante e placida, nel suo stile la stessa chiarezza lampante, in tutto quello che diceva e faceva, la stessa vivace semplicità che giungeva più al cuore che agli occhi e alle orecchie dei suoi ascoltatori. Tornai a casa a piedi con la signorina Matilde, ma egli non si unì a noi. Matilde era mal partito per i passatempi e in bisogno estremo di compagnia. I fratelli a scuola, la sorella sposata è partita, lei troppo giovane per essere ammessa in società, per la quale, dietro l'esempio di Rosalia, aveva fino a un certo punto cominciato a prender gusto, almeno per la compagnia di una certa categoria di gentiluomini. Ed era una stagione morta, senza alcun genere di caccia, perché, nonostante non potesse accompagnare suo padre e i guardacaccia che andavano fuori con i cani, era pur qualcosa di scorrere con loro al loro ritorno, sulla diversa selvaggina che avevano messo nel carniere. e ora le era negata anche la distrazione che procuravano la compagnia del cocchiere, dello stalliere, dei cavalli, dei levrieri e dei pointer, poiché avendo accasato così brillantemente, nonostante gli svantaggi della vita in campagna, la figlia maggiore e l'orgoglio del suo cuore, la madre aveva cominciato seriamente a volgere l'attenzione sulla minore. E allarmatasi sinceramente per le sue maniere, pensando che fosse ormai tempo di provvedere a una riforma, ella aveva deciso di servirsi della propria autorità e proibirle assolutamente di frequentare i cortili, le stalle, i canili e la casa del cocchiere. Naturalmente non sempre era obbedita, ma per quanto debole fosse stata fino allora, una volta presa la risoluzione, non era incline all'indulgenza che si esigeva dalla governante, né si poteva disprezzarne gli ordini con impunità. Dopo molte scene fra madre e figlia, molti violenti litigi a cui assistetti con un senso di vergogna, in cui spesso fu richiesta l'autorità del padre per confermare con giuramenti e minacce le proibizioni della madre prese alla leggera, poiché anch'egli cominciava a accorgersi che Tilde, benché in gamba se fosse stato un ragazzo, non era precisamente quel che avrebbe dovuto essere una signorina. Ma Tilde comprese alla fine che il miglior partito per lei era di tenersi alla larga dalle zone proibite e di non farvi se non qualche visita di sfuggita all'insaputa della sua vigilante madre. In mezzo a tutto questo, non si creda che io me la sia cavata senza mille riprensioni e rimproveri, che non erano meno pungenti perché non espressi apertamente, ma che anzi ferivano più a fondo perché non ammettevano difesa alcuna. Sovente mi dicevano di trovare altri passatempi per la signorina Matilde e di ricordarle i precetti e i divieti di sua madre. Io facevo del mio meglio, ma non potevo divertirla a suo malgrado con passatempi che non erano di suo gusto. E sebbene io facessi più che ricordarle gli ordini di sua madre, le moderate rimostranze che mi erano permesse rimanevano praticamente senza effetto. Cara signorina Grey, è molto strano. Suppongo che non ci riesca e che non sia nella sua natura, ma mi meraviglio che non conquisti la confidenza di quella ragazza e non diventi una compagna gradita almeno quanto Roberto e Giuseppe. Beh, essi possono parlare meglio di me e di cose che le interessano, rispondevo. Ma è una ben strana confessione per una governante. Chi deve formare i gusti di una signorina, mi chiedo, se non la governante? Ho conosciuto delle governanti che si erano talmente immedesimate con la reputazione delle loro giovani allieve per eleganza di maniere e affinità di spirito che avrebbero arrossito a dire una parola contro di loro e che, a udire il minimo biasimo rivolto alle loro scolare, avrebbero sofferto più che a sentire una critica su se stesse e da parte mia la trovo una cosa naturale. Crede, signora? Ma certamente! Per una governante han più importanza le doti e la finezza di una signorina che le proprie. Se vuole avere successo nella sua vocazione, bisogna che dedichi tutte le sue energie allo scopo, e tutte le sue idee e tutta la sua ambizione devono tendere al compimento di quell'unico fine. Quando vogliamo capire i meriti di una governante, spontaneamente si osservano le signorine di cui questa si picca di essere educatrice e poi si giudica. Una governante assennata lo sa che mentre ella vive nell'oscurità, le virtù e i difetti della sua pupilla saranno palesi a tutti, e che se non rinuncia a se stessa nella sua opera di miglioramento, non ha speranza di successo. Vede, signorina Grey, avviene lo stesso in ogni altro commercio e professione. Quelle che desiderano progredire devono votarsi anima e corpo al loro stato, e se si lasciano andare all'indulgenza saranno rapidamente distanziate da rivali più accorte. C'è poca differenza tra una persona che rovina le sue allieve per negligenza e una che le corrompe con l'esempio. Mi scuserà se mi sono lasciata sfuggire queste piccole osservazioni. È solo per il suo bene. Molte signore le parlerebbero con più fermezza e molte altre non si darebbero neppure il fastidio di parlare, ma cercherebbero con calma di sostituirla. E questa naturalmente sarebbe la soluzione più facile, ma conosco i vantaggi di un posto come questo per una persona nelle sue condizioni e non ho nessun desiderio di separarmi da lei, poiché sono certa che farà benissimo se soltanto penserà a queste cose e si sforzerà un pochino di più. Poi sono convinta che acquisterà presto quel tatto delicato che solo le manca per avere la giusta influenza sullo spirito della sua allieva. Stavo per comunicare alla signora qualche idea sulla fallacia delle sue speranze, ma ella scappò via non appena terminato il discorso. Dopo aver detto quel che desiderava, non era suo metodo aspettare la mia risposta. A me spettava star a sentire e non contestare. Come ho detto, Matilde finì col sottomettersi, fino a un certo punto, grado all'autorità di sua madre. Ed essendo stata privata di quasi ogni fonte di distrazione, non le era restato che fare delle lunghe cavalcate col servitore e delle lunghe camminate con la governante, visitare le case, le fattorie delle terre di suo padre e ammazzare il tempo spettegolando coi vecchi che ci abitavano. Durante una di queste passeggiate ci capitò di incontrare il signor Weston. Era stato questo un mio desiderio, ma in quel momento avrei preferito non incontrarlo. Sentii il cuore battere con tanta violenza che temetti che apparisse anche esteriormente qualche segno della mia emozione, ma mi guardò appena e presto mi calmai. Dopo un breve saluto a tutte e due, chiese a Matilde se aveva di recente avuto notizie di sua sorella. «Oh, sì!» quella rispose. «Era a Parigi e diceva che stava benissimo ed era felicissima!» Appoggiò con enfasi la voce sull'ultima parola e lo guardò con espressione impertinente. Egli non ebbe l'aria di notarlo, ma rispose con ugual vivacità e molto seriamente: «Spero che continuerà sempre così». «Lo crede probabile?» mi arrischiai a chiedere, poiché Matilde era andata via di corsa dietro al suo cane che stava dando la caccia a un leprotto. «Ah, non posso dirlo», rispose. «Sir Thomas è forse un uomo migliore di quel che giudico, ma da tutto quello che ho sentito e visto mi pare un peccato che una persona così giovane, gaia e interessante per dire molte cose con una parola sola, il cui grande e forse unico difetto sembra la spensieratezza, un difetto non da poco, intendiamoci bene, che rende il possessore soggetto a quasi tutti gli altri ed esposto a moltissime tentazioni, proprio un peccato che la sia stata gettata a un uomo simile. È stato per la volontà della madre, suppongo». «Sì, ma anche per la sua, credo, perché rideva sempre di ogni mio tentativo per dissuaderla da quel passo». «Ha cercato di dissuaderla? Beh, così almeno avrà la soddisfazione di sapere che non è colpa sua se le cose si metteranno male. Quanto alla signora Murray, non so come può giustificarsi. Se avessi abbastanza confidenza con lei, glielo chiederei. Non si crederebbe, ma molte persone pensano che il ceto e la ricchezza siano le cose principali, e una volta assicurato questo ai loro figli, che il loro dovere sia finito». È vero, ma non è strano che persone mature che si sono sposate abbiano un'opinione così errata. Matilde in quel momento ritornò ansimante con in mano una giovane lepre dilaniata. «Aveva intenzione di ucciderla o di salvarla, signorina Murray?» chiese il signor Weston, evidentemente confuso dalla sua aria giuliva. «Beh, confesso che bisognava salvarla», ella rispose abbastanza onestamente, «poiché è assolutamente fuori stagione, ma ho provato più piacere a vederla uccidere. Comunque tutti e due siete testimoni che non potevo farci nulla. Il principe aveva deciso di prenderla e l'ha afferrata da dietro, l'ha uccisa in un istante. Non è stata una caccia nobile?» «Ma per una signorina inseguire un leprotto?» Vi fu un calmo sarcasmo nel tono della risposta di lui che ella comprese, ma alzò le spalle e, voltandosi dall'altra parte con un significativo «uff», mi domandò se mi ero divertita. Risposi che non trovavo che ci fosse questo gran divertimento nella faccenda, ma ammisi di non aver seguito l'impresa con molta attenzione. «Non ha visto come ha doppiato, proprio come una vecchia lepre, e non ha sentito il grido?» «Oh, sono ben contenta di dire che non l'ho sentito. Piangeva proprio come un bambino». «Oh, povera bestiolina, che cosa ne farà ora?» «Venga, la lascerò alla prima casa che incontreremo. Non voglio portarla a casa per paura che il babbo mi rimproveri per averla lasciata uccidere dal cane». Il signor Weston se n'era andato e noi continuammo la nostra strada, ma al ritorno, dopo aver lasciato la lepre in una fattoria ed esserci rifocillata in cambio di alcune ciambelle speziate e del vino comune, lo incontrammo che ritornava da non so quale sua missione. Portava in mano un mazzo di lingue di leone che mi offrì, dicendo con un sorriso che, sebbene mi avesse vista tanto poco negli ultimi due mesi, non aveva dimenticato che le lingue di leone erano tra i miei fiori preferiti. Egli compì quel gesto con semplicità, senza speciale ossequiosità e cortesia, senza alcuno sguardo che potesse essere preso per rispettosa e tenera adorazione, tra virgolette. ma era pur qualcosa che avesse ricordato le mie parole, così poco importanti, e che avesse anche molto attentamente contato il tempo durante il quale non mi aveva più visto. Mi è stato detto, disse, che lei era un perfetto topo di biblioteca, signorina Gray, tanto sprofondata nei suoi studi da trascurare ogni altro piacere. Ed è vero? Esclamò Matilde. Oh no, signor Weston, non lo creda. È una vergognosa menzogna. Queste signorine amano troppo fare delle affermazioni gratuite a spese delle loro amiche e lei dovrebbe essere molto circospetto ascoltandole. Spero che questa affermazione sia senza fondamento in ogni modo. E perché? Ha qualche obiezione seria contro le donne che studiano? No, ma sono contrario a chiunque si dedichi tanto allo studio da perdere di vista ogni altra cosa, eccetto in circostanze speciali. Giudico uno studio troppo assiduo come una perdita di tempo e un danno sia per lo spirito che per il corpo. Bene, non ho né il tempo né l'inclinazione per commettere tali misfatti. Ci separammo nuovamente. Che cosa c'era poi di particolare in tutto questo? Perché l'ho ricordato? Perché, lettrice, era abbastanza importante offrirmi una serata lieta, una notte di dolci sogni e una mattina di rose e speranze. Allegria sciocca, sogni folli, speranze infondate, direte. È vero. Troppo spesso anche nel mio animo sorgevano sospetti di quel genere, ma i nostri desideri sono come l'esca. La pietra e l'acciarino delle circostanze fanno continuamente schizzare faville che svaniscono immediatamente fin tanto che non cadono sull'esca dei nostri desideri. Allora all'istante prendono fuoco e la fiamma della speranza si accende in un momento. Ma ahimè, proprio quella mattina la mia speranza vacillante fu estinta amaramente da una lettera di mia madre che mi parlava tanto seriamente del peggioramento delle condizioni di mio padre, che temetti ci fosse poca o nessuna possibilità di guarigione. E benché le vacanze fossero vicine, mi sentii tremare al pensiero che venissero troppo tardi per rivederlo in questo mondo. 2 giorni dopo una lettera di Maria mi diceva che non c'era più speranza e che la sua fine sembrava avvicinarsi rapidamente. Allora chiesi immediatamente il permesso di anticipare le vacanze e di partire subito. La signora Murray fece un balzo e si meravigliò dell'energia e arditezza insolite con cui sollecitavo il permesso e disse che secondo lei non c'era nessuna ragione di affrettarsi. Ma finì col darmi la licenza, affermando in tutti i modi che non c'era bisogno di essere così agitata per la cosa, poteva anche trattarsi di un falso allarme, e anche se non lo era, si trattava in fondo di una cosa nell'ordine naturale. Una volta o un'altra dovevamo tutti morire, e non dovevo credermi l'unica persona al mondo colpita da un dolore, e concluse col dirmi che potevo servirmi della carrozza scoperta fino al primo paese. E invece di lagnarsi, signorina Gray, ringrazi il cielo della sua fortuna. Ci sono tante mogli di poveri parroci che andrebbero alla rovina con la morte del capo di casa, ma lei, vede, ha amici influenti che continuano a proteggerla e a mostrarle ogni considerazione. La ringraziai per la sua considerazione e volai in camera mia per fare qualche precipitoso preparativo per la partenza. Messo cappello e scialle, raccolti affrettatamente alcuni capi di vestiario nella mia valigia più grande, scesi di sotto, ma capii di essere stata troppo svelta, perché nessun altro aveva fretta e dovetti attendere ancora molto l'arrivo della carrozza. Finalmente arrivò alla porta e partii, ma oh, che viaggio terribile! Quanto diverso dagli altri miei ritorni a casa. Arrivata troppo tardi per l'ultima diligenza, presi a Nolo un barroccino e poi una carretta che mi portassero su per quelle ripide colline. Erano ormai le 10 passate di sera quando giunsi a casa. Non erano a letto. Mia madre e mia sorella mi vennero tutte e due incontro per il corridoio, tristi, silenziose, pallide. Mi sentii presa da un tale sospetto e terrore che non potei aprir bocca per chiedere le notizie desiderate e temute. Agnese, disse mia madre, frenando a stento la commozione. Oh, Agnes, gridò Maria e scoppiò in lacrime. Come sta? Chiesi con angoscia. Morto. Era quel che mi aspettavo, ma il colpo non fu meno tremendo. Capitolo 19. La lettera. I resti mortali di mio padre erano stati ormai deposti nella tomba e noi, coi visi tristi e in gramaglie, eravamo rimaste intorno al tavolo della frugale colazione discutendo progetti per il nostro futuro. Il forte spirito di mia madre non si era abbattuto neppure sotto questo dolore. Il suo coraggio, benché fiaccato, non era annientato. Il desiderio di Maria era che io tornassi a Horton Lodge e che mia madre andasse a vivere con lei e suo marito, il signor Richardson, alla parrocchia. Disse che suo marito lo desiderava non meno di lei e che questa sistemazione sarebbe andata bene per tutti perché apprezzavano moltissimo la compagnia e l'esperienza di mia madre. Avrebbero fatto di tutto per renderla felice. Ma non ci fu ragionamento o supplica che valesse a persuadere mia madre. Ella aveva deciso di non andare. Non che la mettesse in dubbio neppure lontanamente il desiderio e le buone intenzioni di sua figlia, ma diceva che fin tanto che Dio le conservava forza e salute, si sarebbe guadagnata la vita da sé e non voleva essere a carico di nessuno, anche se non sarebbe stata considerata come un peso. Se però poteva abitare come inquilina nella parrocchia del signor Richardson, l'avrebbe scelta come sua casa prima di ogni altra. Ma nel caso contrario non sarebbe mai andata sotto il tetto di lui, fuorché come una visitatrice occasionale, a meno che le malattie o la disgrazia la rendessero realmente bisognosa di assistenza, o la vecchiaia e l'infermità la rendessero incapace di mantenersi. «No, Maria», disse, «se tu e Richardson potete economizzare qualche cosa, dovete metterlo da parte per la vostra famiglia. Io e Agnese dobbiamo ammassare miele per noi. Buon per me che ho avuto delle figlie da educare, cosicché non ho perduto le mie capacità. Se vuole la provvidenza, soffocheremo i lamenti inutili», disse ancora, mentre le lacrime, ciò nonostante, le scorrevano giù una dopo l'altra per le guance. Ma ella le asciugò e, alzando la testa con fermezza, continuò: «Mi metterò all'opera e cercheremo una casetta ben situata in una località popolosa ma sana, dove prenderemo alcune signorine come pensionanti, se le potremo trovare, e tutte le scolare esterne che verranno o che riusciremo a istruire. Le conoscenze, i vecchi amici di vostro padre potranno mandarci qualche allieva o certo aiutarci con le loro raccomandazioni. Che cosa ne dici, Agnes? Saresti contenta di lasciare l'attuale posto e provare?» «Molto volentieri. E i soldi che ho messo da parte serviranno per ammobiliare la casa. Li ritirerò subito dalla banca. Quando ce ne sarà bisogno, dobbiamo prima prendere la casa e decidere sui preliminari». Maria si offrì di prestarci il poco che possedeva, ma mia madre rifiutò, dicendo che dovevamo stabilire un piano economico e che ella sperava che tutto o parte dei miei risparmi, aggiunto a quello che poteva procurarsi con la vendita dei mobili e a quello che il nostro caro babbo aveva cercato di economizzare per lei dopo che erano stati pagati i debiti, ci sarebbe bastato per vivere fino a Natale. Quando c'era da sperare, sarebbe comparso qualche frutto delle nostre fatiche. Fu deciso che questo sarebbe stato il nostro progetto e che mentre mia madre si sarebbe interessata di ricerche e preparativi, io sarei ritornata a Horton Lodge alla fine dei miei 4 mesi di vacanza e avrei avvertito che sarei partita definitivamente quando fosse stato tutto pronto per l'apertura della nostra scuola. Stavamo discutendo di questi affari la mattina di cui ho parlato, circa 15 giorni dopo la morte di mio padre, allorché fu consegnata una lettera a mia madre. Prendendola, si colorì in volto, ultimamente abbastanza pallido per l'angoscia e i dispiaceri. «Da mio padre», mormorò mentre strappava rapidamente la busta. Da molti anni non sapeva nulla dei suoi parenti. Naturalmente curiosa di sapere che cosa contenesse la lettera, mi misi a osservarla in viso mentre leggeva. E fui un po' sorpresa nel vedere che si mordeva le labbra e corrugava la fronte come per sdegno. Quando ebbe finito, la gettò irriverentemente sul tavolo dicendo con un sorriso sprezzante: «Vostro nonno è stato così gentile da scrivermi. Dice che senza dubbio mi sono pentita da molto tempo del mio matrimonio sfortunato, tra virgolette, e che se soltanto io lo riconoscerò e confesserò che feci male a rifiutare il suo consiglio e che ho giustamente scontato il mio errore, farà di me di nuovo una signora. Se sarà una cosa possibile dopo il mio lungo avvilimento, e ricorderà le mie figlie nel suo testamento. Dammi la mia cartelletta, Agnes, e sbarazza la tavola, risponderò immediatamente, ma prima, poiché forse vi priverò ambedue di un'eredità, è giusto che vi metta a parte di quel che intendo scrivere. Dirò che si sbaglia se suppone che io rimpianga la nascita delle mie figlie, che sono state l'orgoglio della mia vita e probabilmente saranno il conforto della mia vecchiaia o i 30 anni che ho passato con mio marito, che è stato il mio migliore e più caro amico. Dirò che se anche le nostre sventure fossero state il triplo, la mia più grande consolazione sarebbe stata ancora dividerle con vostro padre e dargli il conforto che mi era possibile. E anche se le mie sofferenze durante la malattia fossero state 10 volte di più, non potrei rimpiangere di averlo curato e confortato. Dirò anche che se vostro padre avesse sposato una donna più ricca, le sventure, le dure prove gli sarebbero capitate ugualmente, e sono tanto presuntuosa da pensare che nessun'altra donna sarebbe stata al suo fianco allo stesso modo. Non che io sia superiore alle altre, ma perché ero fatta per lui e lui per me. È che non rimpiango le ore, i giorni, gli anni di felicità che abbiamo passato insieme e che io non avrei potuto godere senza di lui, né lui senza di me, più del privilegio di essere stata la sua infermiera nella malattia e la sua consolatrice nell'afflizione. Devo scrivere così, figliole? O devo dire che siamo tutte molto addolorate di quel che è accaduto in questi 30 anni e che le mie figlie si augurano di non essere mai nate? Ma poiché hanno avuto questa sfortuna, saranno grate di qualsiasi sciocchezzuola che il loro nonno sarà così buono da assegnar loro. Naturalmente tutte e due applaudimmo la decisione di nostra madre. Maria sgombrò il tavolo della colazione, portò la cartelletta e la lettera fu subito scritta e spedita. E da quel giorno non sentimmo più nulla del nostro nonno ricco, fino al giorno che non vedemmo la sua morte annunciata sul giornale molti anni dopo. E tutti i suoi beni terreni, lasciati naturalmente a certi nostri cugini, altrettanto ricchi e sconosciuti.